E siamo in collegamento con un altro artista che si esibirà al Baum Festival dal 7 al 9 giugno. Diamo il benvenuto ai microfoni 103.1 a Forlock. Ciao Forlock. Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Ecco, abbiamo appena ascoltato To The Foundation, appunto, dei Forlock e Aravak. Detto bene? Beh, direi di sì. Direi ok, di sì. Allora, vorremmo farti già la prima domanda. Volevamo sapere, quando sei entrato in contatto appunto con questa band? Cioè, com'è nata la collaborazione con gli Aravak? Allora, io ed Arawak ci siamo incontrati nel 2008. Nel 2008 io in realtà ho iniziato a suonare con loro come tastierista, quindi sono entrato dentro la band come appunto tastierista, e per poi, dopo un po' di tempo di gavetta, passare alla voce principale. Ho iniziato a scrivere le mie righe, le mie canzoni, e loro sono diventati così automaticamente la mia spalla destra e anche quella sinistra con cui portiamo in giro la nostra musica. Quindi dal 2008 ad oggi sono passati quanti? 10 anni, no, di più, 11 anni. 11. Un sacco di tempo, non li voglio contare, anche non li conto, che è meglio. Comunque sì. E ascoltando la vostra musica, si percepisce subito qual è il vostro genere, ovvero il reg. Ma sei sempre stato legato a questo genere musicale oppure hai iniziato suonando qualcos'altro? Allora, io sono cresciuto in una famiglia di musicisti dove mio padre è un musicista di musica classica, mia madre ha studiato musica classica, ma cantava in cori vari, ha insegnato musica alle scuole, mio padre è insegnante di musica, suona il clarinetto, eccetera. Io ho iniziato a studiare pianoforte da bambino, ho proseguito gli studi poi al conservatorio e a un certo punto del mio percorso di studio ho conosciuto dei musicisti africani con cui ho iniziato un bellissimo viaggio nella musica africana, all'interno della musica africana. È stato un passaggio, quello che per arrivare al reggae, molto organico, ecco. Cioè, mi ci sono avvicinato senza fare troppi sforzi. Ho incontrato Arawak, che è stato appunto, cioè dico la band Arawak, che è stato forse il giro di boa con cui finalmente ho potuto buttarmi dentro al 100%. Però prima di arrivare al reggae, insomma, mi sono fatto un bel viaggio, un bel giro nella musica della world music, in tutti gli aspetti che riguardano la musica classica e la musica contemporanea. Ho studiato musica elettronica, musica nuove tecnologie, mi sono laureato al conservatorio in musica nuove tecnologie, per poi finire in Giamaica. Certo. E questo è il momento che sto attraversando adesso, in cui mi trovo molto a mio agio, devo essere sincero, Ho capito, ma entrando nello specifico, se non sbaglio, nel 2018 avete pubblicato il vostro secondo lavoro, To The Foundation, appunto. Esatto. Cosa troviamo in questo disco? Cioè, qual è la differenza con il precedente lavoro? Parlacene un po'. Allora, con To The Foundation abbiamo deciso, perché è stata proprio una scelta, quella di dedicarci a un particolare momento della storia della musica reggae, che è quella che si è vista negli anni 70-80, cioè quando questa musica è nata e quando questa musica è stata scoperta un po' da tutta l'Europa, no? Da tutto il mondo, più che per l'Europa. È per questo che abbiamo intitolato questo disco To The Foundation, perché siamo andati verso le fondamenta di quella che costituisce la musica reggae, cercando di metterne un po' in evidenza gli aspetti che ce ne hanno fatto innamorare di questa musica, cioè il suono caldo, vintage, il suono che ci riporta all'isola della Giamaica negli anni 70, quando le cose non erano semplici per niente, si faceva questa musica per uscire dalla vita del ghetto. E dopo diversi viaggi in Giamaica con cui ho avuto modo di vedere com'è la situazione oggi lì e farmi raccontare com'era invece in passato, ho potuto appunto scoprire che effettivamente la musica reggae è stata l'unica arma che i giamaicani hanno avuto per uscire da, diciamo, per sognare di venire fuori dalla vita di strada, dalla vita, dalla povertà, eccetera. Quindi il sogno giamaicano credo che abbia funzionato così tanto da spingere la loro musica in giro per il mondo, come vedi Bob Marley, Dennis Brown, che appunto è l'artista che abbiamo tributato in questo album che si chiama To The Foundation, e ha fatto innamorare tante persone. La musica reggae è diventata una roba globale, viene ascoltata in tutto il mondo, esistono una miriade di festival, e con questo disco abbiamo scelto di celebrarne proprio quel momento della sua storia, cioè quando si faceva perché c'era bisogno di farla per una questione di vita o di morte, la voglio disegnare così, mi piace vederla così. Certo. E questa è To The Foundation. Perfetto, e senti, abbiamo già detto durante la presentazione che ti esibirai insieme alla tua band al Baum di Bologna. Avete altre date in programma? In giro per l'Italia, anche per l'Europa? Allora, facciamo un bel giro in Italia. In realtà saremo appunto a Bologna al Baum il 9 di giugno, poi andremo a Fermo al Baba Boom Festival. Bellissimo. A luglio. Io sono di quelle parti, lo conosco molto bene il festival. Ah, sì? Sì, bene, sì, ottimo. Beh, ti invitiamo, noi suoniamo lì il 17, anzi suoniamo sia il 16 che il 17. Dai. Poi andiamo a Mogliano Veneto, facciamo un giro al nord, suoniamo, poi scendiamo in Puglia, facciamo un bel giro Lecce, Bari, andrò in Sicilia, facciamo delle robe in Grecia, abbiamo una data in Spagna, Rototom, Sunsplash questo agosto. Insomma, in realtà ci aspetta un sacco di roba, in realtà. Sì, date. Non ci lamentiamo, non ci annoieremo, ecco, di sicuro, quest'estate. E bravi. Allora, noi terminiamo qui l'intervista. Grazie per essere stato con noi, per averci raccontato la vostra storia. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, appunto, a recarsi al Baum, al Parco DLF di Bologna, per ascoltare tutti in genere gli artisti e in particolare anche voi il 9 giugno. Grazie ancora. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.